è iniziato nel 2009 e proprio quest'anno raggiunge i suoi primi 10 anni. Si concentra prevalentemente nell'area portuale, anche se in cantiere ci sono delle nuove idee, ma nasce proprio al porto, che è un po' il cuore pulsante della città di Civitanova Marche. Questi in 10 anni sono arrivati circa 100 artisti e abbiamo dipinto sia i cantieri navali che il braccio proprio del molo est, che sono più o meno 2000 metri quadri solo in quel braccio, più una ventina di pareti dei cantieri navali, per cui è un lavoro che è andato avanti parecchio, anche proprio in estensione di metri, insomma è un lavoro importante. Sono stati coinvolti solo artisti italiani per ora, ci saranno delle sorprese con qualche internazionale già da quest'anno. Perché solo artisti italiani? È stata una tua scelta volutamente? Sì, è stata una mia scelta che ho voluto fortemente, perché abbiamo tantissime qualità in Italia, tantissime risorse di artisti più o meno conosciuti e mi sembrava giusto dare spazio a questi nomi. C'era anche un po' una tendenza in Italia da parte di festival molto più grandi di andare sui nomi internazionali subito, partire subito da lì, quindi la mia è stata proprio un ritorno un po' alle origini, alla terra, visto che abbiamo esportato arte per decenni in tutto il mondo, per cui l'idea era quella proprio di ricominciare dal territorio, quindi prima le Marche, Civitanova e zone limitrofi, e poi piano piano estendersi a tutta la penisola. Per 10 anni l'idea era quella che il progetto è maturo, è arrivato a una fase cruciale, quindi anche una certa maturità nella curatela, nelle scelte, per cui abbiamo deciso di aprirci magari nell'occasione del decennale a qualche artista estero, ma è in via del tutto eccezionale appunto per festeggiare questo primo compleanno. Abbiamo deciso, dici, perché chi c'è insieme a te, che ricordiamo sei il direttore artistico l'ideatore del festival? Esatto, sì, l'ideatore, vicino a me dei pazzi che mi aiutano in questa impresa assurda, perché tra le tante scelte di campo anche quella di non chiedere soldi pubblici al comune della nostra città, ma ci siamo sostenuti con crowdfunding, con lettere spontanee, sponsor privati e fondi europei. Parlo sempre in plurale perché vicino a me ci sono appunto delle persone che hanno sposato quest'idea. Non siamo un'associazione, anche questa è stata un'altra scelta appunto di campo, siamo un collettivo spontaneo che si riunisce di volta in volta quando dobbiamo portare avanti il progetto. E ci sono con me appunto degli amici, siamo 3-4 circa, cui a ognuno dato una responsabilità, un ruolo, copriamo diciamo le figure principali, quindi dalla documentazione fotografica e video all'accoglienza, perché tra i tanti partner c'è un mio amico che ha un B&B e ospita dal 2009 gli artisti in maniera totalmente gratuita, per cui è proprio un impegno, no, che ha messo in rete delle realtà locali, tra cui anche i ristoranti, a cui non chiediamo soldi ma chiediamo ospitalità. Io ci tengo molto a questo, l'importante è che passi, no, questo messaggio di aggregazione e non solo un festival che dura 10 giorni all'anno e poi magari, no, nell'arco dei 12 mesi non produce niente, invece no, il colore è stato proprio progettato appunto per lavorare tutto l'anno con le scuole, nelle scuole, attraverso la proiezione nel cinema, talk, presentazioni di mostre, cataloghi, quindi è un progetto diffuso che è anche un progetto composito fatto da tante attività tutto l'anno. A proposito di video e di progetti diffusi, avete fatto uscire appunto il documentario di Vedo a Colori, che presenterete anche qui a Bologna, il Fruit. È un primo documentario, in realtà stiamo già girando con la videomaker le riprese della parte 2, perché appunto stiamo raccogliendo tutta una serie di interviste e raccontano appunto queste fasi negli anni, e questo è un primo tempo che racconta un momento preciso, che è la realizzazione finale di questa grande parete del molo, ma stiamo già appunto raccogliendo informazioni e documentazioni per quanto riguarda la realizzazione dei cantieri navali e altre interviste, per cui crediamo che tra questo primo tempo e il secondo tempo, che uscirà tra qualche anno, avremo in totale docufilm di circa un'ora. E oltre a questo ci sarà anche la presentazione del secondo catalogo. Esatto, sì, per la prima volta a Bologna, per la prima volta il documentario a Bologna, per la prima volta il catalogo a Bologna. Ho scelto proprio il Fruit perché è, a mio avviso, la realtà più importante campo della grafica e dell'editoria indipendente oggi in Italia, attiva. Visto che prima hai parlato di artisti internazionali, qualche nome? Noi per Scaramanzia non l'abbiamo mai fatto. Ok. I nomi, non li... anzi, ecco, questa è una bellissima domanda che non mi fanno quasi mai. Sulla scelta della line-up, la differenza che ci distingue dal festival, chiamiamolo tra virgolette, di campo, quello sì, no, più istituzionale, più quindi amo più chiamarlo progetto dei colori, ma semplicemente anche perché tra le tante differenze c'è proprio la line-up. Mentre nel 90% dei festival si proclamano, dichiarano prima i nomi degli ospiti che verranno, degli artisti che verranno, anche questa è stata una mia scelta, cioè non comunicare prima i nomi degli artisti che vengono per non creare, non dico sia voluta, però per non creare una sorta di zapping televisivo, cioè io vengo solo quando c'è quell'artista e magari trascuro, no, gli altri. Io dico sempre che a Vedo a Colori gli artisti fanno un passo indietro a favore del progetto, cioè è più importante il progetto, per cui ogni weekend che si dipinge è importante come il precedente o sarà importante come quello che verrà dopo. Tutti gli artisti sono uguali, valgono alla stessa maniera, perché appunto conta un altro messaggio, no, sociale, che non è quello che potrebbe dare una line-up rischiando appunto di bruciare, no, dei nomi a favore di altri. Per cui noi comunichiamo sempre il nome con la foto pubblicata, per cui invitiamo sempre tutti a venire, perché ogni weekend vale tantissimo, a prescindere dal nome che ci sia. Per cui ci sono tanti artisti che mi hanno scritto personalmente o che hanno raggiunto la pagina di Facebook, stranieri, con cui stiamo dialogando un po' per capire le condizioni, perché, come ripeto, noi non prendiamo soldi pubblici, non dal comune, per cui ogni volta dobbiamo riattivare una macchina organizzativa di autoproduzione che è molto molto pesante, soprattutto di questi tempi, per cui anche un artista straniero costa. Sicuramente poi noi, non, nella maggior parte dei casi, mi dispiace anche dirlo, però non abbiamo soldi se non accoglienza, vitto alloggio, colori, permessi, eccetera, eccetera, ma non, spesso e volentieri, tranne nelle parentesi dei fondi europei, non abbiamo dato i gettoni in più di rimborso all'artista, per cui è proprio una resistenza questa, diciamo, a colori, che avrà, a mio avviso, anche una certa durata, per cui, ed è un miracolo essere riusciti a portare oltre 100 artisti a Civitanova con queste condizioni. Per 10 però, anni per di più, poi 10 anni per di più, due mostre, due volumi, un documentario, stiamo e anche secondo l'uscita, quindi insomma secondo l'uscita, sì, anche i miei collaboratori sono tutti a titolo volontario. Beh, direi che ad oggi comunque il Vedo a Colori rimane uno dei festival di street art veramente di qualità e più longevi che abbiamo in Italia. Sì, più longevi e anche di qualità, appunto, a prescindere dalle pubblicità, appunto, da quelle, tutte quelle differenze di cui parlavi prima. Esatto, e poi soprattutto è veramente indipendente, cioè libero da ogni cappello politico che si è avvicinato o ha provato ad avvicinarsi, no? Perché poi sotto campagna elettorale tutti promettono, tutti arrivano, ti danno, no, noi ti diamo questi soldi. Io ho sempre detto no a tutti, ce la caviamo da soli, con tanta fatica, perché ci sono stati degli anni che siamo riusciti a fare a malapena tre muri, anni in cui abbiamo fatto 700 metri quadri, poi dipende, no, dagli sponsor che uno trova. Però sappiamo che questo è un miracolo che difficilmente si potrà ripetere con queste condizioni, ma è stata una scelta, un regalo soprattutto mio verso la città, che viveva un momento di bassa riguardo il parlare attraverso i muri, perché dopo l'ondata hip hop degli anni 90 sono fermati tutti i graffiti, i poster, eccetera, eccetera, per cui sono tornato un po' a dialogare con il territorio in maniera sicuramente più istituzionale, se vogliamo, no? Perché non c'è nulla di illegale